America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero dal Giappone, parlando del massacro nella chiesa battista di Sutherland Springs in Texas, dove, come sappiamo, un ex militare dell'aeronautica ha ucciso in un raptus 26 persone. Il presidente americano Donald Trump non cambia timbro. La colpa non è delle armi, ma della follia che si è impadronita di questo individuo. Sarà, ma credo che la gente sia sempre meno predisposta a pensare che le armi libere non abbiano una loro responsabilità in questi eccidi ormai troppo frequenti. Pensiamo soltanto alcuni giorni fa, alcune settimane fa, a quello di Las Vegas. Da Tokyo Trump ha parlato di equilibri commerciali che vanno raddrizzati, e su questo tema, il rapporto di Trump e l'Asia, torneremo nelle prossime trasmissioni. Poi un passaggio per la Corea del Sud e grande attesa per la visita a Pechino, il debutto di Trump nel Palazzo del Popolo con la First Lady Melania, atteso per domani. Ma oggi, 7 novembre, primo martedì del mese, in America si vota. Lo sapete ormai, tutti i primi martedì del mese di novembre si vota. C'è per esempio il seggio senatoriale di Jeff Sessions, segretario della giustizia, in ballo. Ci sono seggi alla Camera, un paio di seggi anche in California, due governatori e molti sindaci, tra cui il sindaco di New York. Bill de Blasio sarà confermato oggi alla guida della grande mela, credo un pronostico che si può fare con una tranquillità superiore a quella che si fece per le elezioni di Hillary Clinton. E devo dire che questa elezione chiave per New York mi riporta alla piccola mela, a Milano, e a una campagna che lanciai qualche tempo fa per Milano città globale. Bene, per fare il punto su questa mia campagna pro Milano, chi meglio del presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni. È stato a New York qualche giorno ed eccolo qui con noi ai microfoni di America 24. Dunque, salutandolo, gli chiedo subito se condivide la necessità di una forte campagna per Milano globale. Assolutamente sì. Milano sta vivendo una fase straordinaria, un nuovo rinascimento, perché c'è un'energia straordinaria. Dobbiamo però vincere molti pregiudizi che sono diffusi nel mondo sull'Italia, come un paese che non è efficiente, dove non si può investire, dove non funziona niente. Ecco, Milano è molto diverso da questo stereotipo e dobbiamo far capire, far conoscere quanto efficiente è, quanto bello è venire a Milano, investire e anche vivere a Milano. Ecco, tra l'altro lei sta lavorando a questo progetto, ci può dare qualche anticipazione per trasformare un po' la città, la Lombardia, in grande centro della salute? Abbiamo investito molto e stiamo investendo molto su questo ruolo di Milano come capitale europea delle scienze della vita, la ricerca scientifica, la ricerca medica, la ricerca biomedica. Abbiamo investito risorse importanti e stiamo attrezzando due aree, grandi aree, una est e una ovest di Milano, l'area ex area Falck, dove c'era un'acciaieria Falck, che sono 150 ettari, e dall'altra parte l'area dove si è svolto Expo Milano 2015, altri 110 ettari, e vogliamo lì realizzare da una parte la città della salute e della ricerca, e cioè una struttura innovativa in Europa e non solo sull'oncologia in particolare, e dall'altra parte invece Human Technopole, un investimento da parecchi miliardi di euro nei prossimi 10 anni sulla genomica, sullo studio del genoma umano per prevenire le malattie. Questi investimenti fanno di Milano già così la capitale europea delle scienze della vita. Se poi la Commissione europea dovesse decidere di assegnare a Milano l'Agenzia europea del farmaco, una specie di Food and Drug Administration, allora Milano diventerebbe nel mondo un punto di riferimento straordinario per queste attività. E che cosa si sta facendo per convincere la Commissione? Chi sono i concorrenti? Sono tanti i concorrenti, sono circa 20 le città candidate, si figuri un po', perché è l'agenzia più importante in Europa, perché regola proprio l'uso dei farmaci, e quindi avere l'Agenzia Europea del Farmaco a Milano vuol dire avere una forza straordinaria. ci stiamo muovendo di comune accordo, la Regione, il Governo, la Città Metropolitana di Milano. Abbiamo presentato un dossier di candidatura molto forte. Io ho messo a disposizione il Pirellone, un palazzo storico di Milano, nel centro di Milano, 30 piani come sede per EMA, è stato molto apprezzato e ha reso il nostro dossier molto forte e competitivo. La scelta però purtroppo, temo, non sarà solo sulla qualità del dossier, perché altrimenti Milano vince, ma come tutte le scelte fatte nella politica dovranno tener conto anche di altri fattori. Ecco, noi stiamo lavorando perché prevalga la consistenza del dossier rispetto a valutazioni geopolitiche che in questo caso non hanno alcun senso di essere messe sul tavolo. Come vede lei il futuro? Vede una grande Milano metropolitana? Beh, Milano formalmente è già città metropolitana. Nella sostanza c'è ancora Milano città e tutti gli altri comuni che formano la città metropolitana, che però non si sentono ancora città metropolitana. Bisogna lavorare molto in questa direzione e da questo punto di vista certo New York può essere un esempio, perché è riuscita a trasformare varie realtà diverse in una città metropolitana. Quindi New York anche da questo punto di vista può essere per noi un punto di riferimento importante. Ci dia un'ultima emozione su New York, la città. C'è stata la maratona l'altro giorno, la trova vivace, funziona? Sì, è una città straordinaria, è sempre una grande emozione, ci torno sempre volentieri. Tra l'altro alla maratona mi pare che l'Italia sia stato il secondo paese come numero di partecipanti, quindi per noi New York è un'attrazione fatale, non solo perché ricordiamo nel secolo scorso tutti gli italiani che sono venuti a lavorare in America, ma perché è un punto di riferimento, è il futuro e noi vogliamo essere come Milano, come Italia, in competizione proprio nel senso positivo del termine con città come New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me il governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni. Canzone del giorno, cosa scegliamo? Scelgo un classico del rock, il Boss, Springsteen. We were born to run, che è un po' il nostro destino. Siamo nati per correre. Born to run di Bruce Springsteen. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!